Anche quest'anno Radio 24 partecipa coi suoi programmi al PRI Italia. Il Premio Internazionale della Radio e della TV apre la sua 63esima edizione il 18 settembre a Torino, con la presenza di 93 radiotelevisioni dai 5 continenti. Domenica 18 settembre, alle 13, alle 15.30 e alle 20.30, vi proporremo i due reportage e lo speciale di Chiedo Asilo che partecipano al premio. Venerdì 23, i vincitori. Tifate per noi su www.radio24.it.